Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, un nuovo appuntamento con gli incontri con i grandi protagonisti del cinema, della musica, della cultura. La nostra voce in scena di oggi è quella di uno degli attori più amati della nuova generazione. È nato nel 1975 a Roma. Dopo la maturità si iscrive alla facoltà di lettere e indirizzo spettacolo dell'Università La Sapienza, ma poi lascia per dedicarsi completamente al teatro. La popolarità nel 2008 con il ruolo del Freddo nella serie televisiva romana Criminale, diretta da Stefano Sollima, ispirata alla vera storia della cosiddetta banda della Magliana. Nel 2009 debutta sul grande schermo con Facebook, pellicola in 8 episodi ispirata al social network Facebook. Nello stesso anno gira da protagonista il film 20 sigarette di Aureliano Amadei, uno dei superstiti della strage di Nassiriya del 2003. Il film viene presentato alla 67esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e vince la sezione Controcampo Italiano. Lui ottiene una menzione speciale per la prova d'attore. Per lui quest'estate è sul set, finalmente in una commedia. Stiamo parlando di Vinicio Marchioni. Amica da morire, opera prima con la regia di Giorgia Farina. Beato tra le donne, perché le protagoniste sono Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore e Cristiana Capotondi. E io, che faccio un ispettore di polizia un po' imbranato, con un sacco di problemi rispetto alle donne, per una serie di motivi che si scopriranno nel film. Un ispettore di polizia che opera su quest'isola in cui è ambientato il film e che soffre il mal di mare da morire, quindi questo è un handicap da non sottovalutare, e soprattutto non ci vede, è completamente, non vede niente, va in giro con degli occhiali enormi. In una scena del film, verso la metà, si perde questi occhiali e continua le indagini come una talpa, andando in giro a fare gli inseguimenti con un binocolo enorme. E sono contento e anche, come dire, molto incuriosito di vedere quello che sono riuscito a fare. Ancora non ho visto niente, perché non vedo mai niente se non quando c'è la proiezione, perché è il primo film, il primo ruolo dichiaratamente in una commedia, e quindi, siccome quello che mi ha fatto conoscere fino adesso sono stati soprattutto dei ruoli drammatici, sono molto curioso di vedere quello che ho fatto. Anzi, hai detto a Giorgia Farina non farmi scatenare, perché sì, perché fare la commedia è meraviglioso, perché è un altro mondo espressivo straordinario che ho avuto modo di toccare anche nel film di Francesco Bruni in Scialla, però con un ruolo molto piccolo, insomma, che però mi ha portato molta fortuna. E mi auguro che, con questo ruolo qui più grande, riuscire a far ridere le persone penso che sia altrettanto complicato che farle emozionare, no? Quindi un'operazione molto importante per me, perché penso che un attore poi debba essere in grado di fare più o meno tutto quanto. Te ne vuoi andare? E perché? Perché mi sono rotto il cazzo. La condanna è sicura, che in carcere non ci resta. Quindi trovo un modo per farmi trasferire in ospedale. Ma una cosa seria, non come i pezzi di carta del Dandy. Ora essere seria parecchio, a cui non nasce col sospetto di un cancro. Seria quanto basta. È per lei che te ne vanno, vero? Lo sai come si sta qua dentro? Se passa il tempo a pensare a quello che è stato, a quello che poteva adesso. E te spegni giorno dopo giorno come una candela. Non la faccio più. Me voglio rifare una vita lontano da sta merda, costi quel che costi. Non sarà gratis. Non sarà semplice. Ma vedrò che posso fare. Grazie. È una cosa un po' insolita in Italia, di solito ti metto in una casellina e stai sempre in quella. Che sto veramente combattendo con tutte le unghie e con i denti per cercare invece di uscire da qualsiasi tipo di classificazione. Fino adesso mi è andata meravigliosamente, sono contento e sono contento che comunque le persone, i registi, gli addetti ai lavori, gli uffici casting mi chiamino e si convincano sempre di più che sono in grado di divertirmi a fare il mio mestiere in più ambiti, insomma. In questo libro ho solo raccontato la mia storia. Sono rimasto zoppo, mezzo sordo e soffro di attacchi di panico. Eppure non mi sono mai sentito una vittima. Non sono una vittima. Né dei terroristi, né degli iracheni, né dei soldati italiani che hanno sottovalutato il rischio. No. Perché anch'io, in fondo, penso di essere un carnefice. Sì, insomma, una piccola parte di quel meccanismo che si nutre quotidianamente di sangue. Di quel sistema, no? Che fa trovare nello stesso posto Rolla a fare un film, dei soldati italiani a presidiare un territorio e dei terroristi a farsi esplodere. Tutti quanti più carnefici che vittime. E tutti quanti esseri umani. Ma tutto questo, naturalmente, ai funerali non se ne è parlato. E l'apparenza sembrava il fattore dominante, no? Una parata piuttosto che un funerale. Tutta la città si era riversata per le strade. Sembrava che tutti quanti ci avessero bisogno di partecipare ad un dolore privato che era diventato pubblico. Tutti quanti i politici si sono messi davanti alle bare, come se i figli l'avessero ammazzati a loro. E alcuni genitori sono rimasti dietro, e qualcuno anche in piedi. Nell'omelia non una sola frase contro la guerra. La parola più usata è stata Dio. 12 volte. Che sommata a quante volte l'hanno chiamato Signore fanno 17 però. Eroismo, solo 11 menzioni. Patria, 5, però si rifarà più avanti quando a parlare sarà un militare. Ficucello, 0. Olla, 0. Rolla, 0. Bambini iracheni morti nell'attentato, 0. No, Aurelia, basta. Scusa, eh. Ficucello, Olla. Ma come cazzo li fai a mettere sullo stesso piano dei bambini iracheni? Ci posso credere se a farsi discorsi? Un'opera prima, tu sei già uso e aduso alle opere prime. È importante che un attore si metta sempre in gioco con delle opere prime, soprattutto in un momento storico ed economico come questo. Insomma, bisogna dare un po' di impulso a chi vuole cominciare. Questo sempre. Sempre nei cortometraggi, sempre nelle opere prime, sempre nei progetti che uno in fase di... quando ti danno le sceneggiature, la prima cosa che mi colpisce è la qualità, insomma. Quindi poi questa è un'opera prima anomala, nel senso che comunque c'è una grandissima produzione dietro, con Rai Cinema, con Andrea e Raffaella Leone, che ci hanno messo moltissimo, insomma. Quindi è un'opera prima molto protetta. C'è la fotografia di Maurizio Calvesi, che è un grandissimo maestro della fotografia. Un attore deve mettersi in gioco sempre, perché quello che presumi di saper fare lo decidono sempre le altre persone, lo decide il pubblico, lo decidete voi, insomma, se un attore funziona o no. E quindi, perlomeno per me, il metro di giudizio nei progetti è sempre la qualità e la possibilità comunque di sempre di diversificare. C'è chi fuma per vizio, chi per noia, chi per darsi un tono, e chi solo perché a smettere non ce la fa. E c'è chi fuma perché proprio gli piace. Gli piace il gesto di accenderla, di tenerla tra le dita, di sentirla tra le labbra. Io, a dirla tutta, sento che questa sigaretta ha un sapore che fa schifo. Eppure non riesco a farne a meno. Insomma, sì, è una tossicodipendenza anche questa. Quindi io sono un drogato. Fumo sigarette e non riesco a smettere perché fumare è l'unica cosa stabile della mia vita in cui tutto il resto è sempre stato precario. Ed è proprio per non pensare a tutto quel resto che io fumo. Una sigaretta è prendersi una pausa. Io sono ancora drogato di pause, nonostante quello che mi è successo 7 anni fa, quando stava per arrivare la grande pausa. Diversificare, insomma, hai fatto anche tanto teatro e cose importanti ultimamente. Quest'anno cosa succederà? A parte Amiche da morire, che dovrebbe arrivare attorno all'8 marzo. Marzo, sì. Succederà che riprendo il tram chiamato Desiderio e un'altra buona fetta di tournée da metà di novembre fino a fine di marzo. Toccheremo tutte le grandi città. Riprendo anche il monologo che ho scritto io sulla vita di Dino Campana, credo ad aprile però 2013. E c'è un documentario a cui tengo molto che si chiama Un consiglio a Dio, che verrà presentato al Festival Internazionale di Pesaro il 29 di giugno e poi verrà proiettato a Roma, a Piazza Vittorio, l'8 luglio. È un'operazione molto interessante, molto piccola, molto difficile, molto di nicchia, però in cui faccio un trovacadaveri della camorra che si esprime in dialetto casertano bruttissimo, un personaggio di orrendo, insomma, che però è molto importante perché è inserito in un documentario sull'integrazione e fa vedere le due facce della medaglia, insomma, tra questi poveri disperati che arrivano da noi e un altro povero disperato che interpreto io che fa questo mestiere per 15 euro ogni cadavere che trova e che... Insomma, è un'operazione molto particolare a cui tengo molto. E poi adesso inizio le riprese, il 2 di luglio inizio le riprese del nuovo film di Marco Ponti. E speriamo bene, insomma. E per Voci in Scena è tutto, l'appuntamento è per domani alla stessa ora.